2024 di Enrico Pagliarini. Benvenuti o bentornati, questa è la puntata del 26 e 27 luglio 2014. 2024 è il programma di Radio 24 dedicato alla tecnologia. Ogni settimana, anche grazie ai nostri esperti, anzi direi soprattutto ai nostri esperti, capiamo insieme come la tecnologia sta cambiando la nostra vita, il nostro lavoro, i paesi, perché la tecnologia in alcuni casi ha radicalmente cambiato la faccia di alcuni paesi. Pensate, che ne so, alla Corea del Sud. La differenza grazie alla tecnologia tra quello che era la Corea del Sud qualche decina d'anni fa e quello che è oggi. La tecnologia è un fattore competitivo molto importante. Basterebbe capirlo per vedere il prodotto interno lordo aumentare invece che litigare su cose inutili che non faranno spostare di nessuna percentuale la nostra economia. Bene, il nostro indirizzo di posta elettronica se volete comunicare con noi è 2024@radio24.it. Ci trovate anche su Facebook e Twitter. A proposito di Facebook, questa settimana smentendo tutti quelli che non credevano nei social network e nel social network, ovvero Facebook, e al suo miliardo e oramai verso il miliardo e mezzo di utenti nel mondo, Facebook ha pubblicato una trimestrale con ricavi e utili in aumento. Allora, nei primi tre mesi, quelli che sono terminati il 30 giugno, quindi il secondo trimestre dell'anno, Facebook ha registrato ricavi per 2,91 miliardi di dollari in rialzo del 61% dallo stesso periodo dello scorso anno. Gli utili netti sono stati pari a 791 milioni di dollari, il 138% in più rispetto allo stesso periodo. Quello che va particolarmente bene sono i ricavi da pubblicità mobile, quindi da smartphone e tablet. E proprio la pubblicità su questi terminali ha rappresentato, pensate, il 62% dei ricavi da pubblicità, in crescita rispetto al 59% del primo trimestre del 2014. Quindi cresce il ricavo da pubblicità mobile. Sapete che Facebook profila gli utenti grazie alle informazioni che noi diamo e vende pubblicità che riesce ad arrivare al target preciso che un investitore pubblicitario si pone come obiettivo. E proprio di questo parleremo oggi nella nostra puntata con Luca Colombo, che è country manager di Facebook in Italia, quindi responsabile della sede italiana di Facebook. Partiremo da qualche numero per capire quanti sono gli utenti della network italiano di Facebook, per poi aprire lo sguardo a tutte le altre cose, soprattutto al mercato pubblicitario. A proposito di trimestrali, anche Apple ha pubblicato i dati molto interessanti, perché vabbè, oltre che i conti continuano ad andare molto bene, è interessante vedere quello che è successo nella dinamica. Allora, a proposito di conti, il fatturato dell'azienda è stato di 37,4 miliardi di dollari con utili di 7,7 miliardi, quindi stiamo parlando di un gigante vero e proprio rispetto a Facebook, quindi 37 miliardi rispetto ai meno di 3 miliardi di dollari di Facebook, quindi parliamo di due cose completamente diverse. Comunque, il numero di iPhone venduti è cresciuto del 12,7% a 35,2 milioni, mentre gli iPad calano del 9% a 13,3 milioni e soprattutto, dicono gli esperti, pagano la concorrenza di modelli meno costosi in giro per il mondo, soprattutto in Asia. Ma di questo parleremo, perché questo è un dato importante e interessante, ne parleremo in una delle prossime puntate con Carolina Milanesi, che da un po' di tempo non sentiamo. Adesso abbiamo alcune notizie in breve, le nostre Digital News. Digital News. Iniziamo da alcune novità proposte da Microsoft dopo aver annunciato l'abbandono del progetto Nokia X, che utilizza il sistema operativo Android. L'azienda ha annunciato che in un futuro abbastanza vicino esisterà un'unica versione di Windows che girerà quindi su PC, notebook, tablet e smartphone. Il cambiamento arriverà con la prossima versione, che sarà Windows 9. Google avrà 18 mesi per adeguarsi alle novità imposte dal garante italiano per la privacy. Google non potrà utilizzare i dati dei propri utenti in Italia per la creazione di profili da sfruttare poi naturalmente per vendere pubblicità senza prima aver ottenuto l'esplicito consenso. È sicuramente un passo verso una maggiore consapevolezza degli utenti, ma purtroppo anche in questo caso si tradurrà tutto in una serie di indicazioni che nessuno leggerà e uno mette accetta, accetta, accetta, approvo, approvo, eccetera, eccetera, e quindi cambierà ben poco. Cresce il mercato della musica in Italia, ma quello che ci interessa di più a 2024 è la crescita del 20% del segmento digitale, che oggi pesa per il 43% dei ricavi totali. Nel primo semestre, per la prima volta, lo streaming, sia audio che video, è cresciuto del 95% e ha superato, pensate, il download di brani musicali. Oggi lo streaming rappresenta il 55% dei ricavi della musica digitale. Lo streaming audio è dominato da player come Team Music, Spotify e Deezer ed è cresciuto del 134%. Tuttavia, cresce la musica digitale, ma su un business della musica in questi primi sei mesi di 53,6 milioni di euro, il CD e anche una piccola quota di vinile, ma sono meno di 100.000 i vinili venduti, pesano per 30,7 milioni, quindi ancora il canale fisico vale più del 50% del mercato, ma il digitale cresce così tanto che nel giro di poco tempo dovrebbe avere la meglio sul canale fisico, diciamo il digitale è quello liquido, non quello fisico come il CD. Parliamo di car sharing, sono stati pubblicati e sono brillanti i risultati per Enjoy, il servizio di car sharing, cioè di condivisione dell'auto, lanciato a dicembre da Eni a Milano, e a 8 mesi dal lancio sono, pensate, 100.000 gli iscritti nella città di Milano e 25.000 a Roma, dove però il servizio è arrivato in giugno. La cosa interessante è che Enjoy è l'unico servizio di car sharing completamente paperless, quindi senza carta e nemmeno la carta, nemmeno una card di plastica, nemmeno una tessera di plastica, perché l'auto si apre con lo smartphone, e se non avete ancora provato dovreste fare la prova, perché è sicuramente molto molto bello, molto interessante. Se non siete di Milano e arrivate a Milano, beh, potreste registrarvi al servizio, tutto completamente senza carta, senza nessun rapporto con un ufficio, tutto online, e poi fare la prova e aprire l'automobile con lo smartphone, pagare con lo smartphone, eccetera eccetera. Abbiamo parlato prima di Apple, abbiamo parlato della trimestrale. Per quanto riguarda Apple in Italia, ha aumentato i prezzi dei propri prodotti, naturalmente l'attenzione prevalente è su iPhone e iPad, li ha aumentati di un importo pari al compenso per copia privata aggiornato dal ministro Dario Franceschini. Ricorderete, ne abbiamo parlato per molto tempo, questo meccanismo oramai medievale, potremmo definirlo così, per cui uno paga sul contenitore, e quindi su uno smartphone, su un tablet, su un CD, qualsiasi cosa che abbia una memoria che possa contenere un contenuto digitale, uno paga perché si presuppone che uno poi si faccia una copia privata di un contenuto acquistato legalmente. Quindi io mi copio ad esempio un CD che acquisto sul mio smartphone e per questo motivo devo pagare. Se uno non copia niente paga lo stesso. Questa è un po' l'assurdità del meccanismo in un'epoca, in un'era dove tutto potrebbe essere tracciato e si potrebbe andare verso questa direzione. Tuttavia, dopo polemiche che sono state aggiornate anche questa settimana, perché Confindustria Digitale ha ribadito che chiederà la sospensione del decreto, ha ribadito che in Italia paghiamo un alto costo, paghiamo un sacco di soldi rispetto ad altre nazioni europee. Secondo alcuni dati che sono stati pubblicati, pare che paghiamo il 25% di tutto il gettito da compenso per copia privata europeo, lo paghiamo in Italia. Ma non entriamo in queste dinamiche, perché poi i calcoli sono molto complessi. Anzi, se avete voglia e siete interessati ad approfondire questo tema, su dday.it Gianfranco Giardina ha pubblicato questa settimana un'inchiesta molto ben fatta, molto approfondita, sul flusso di denaro che viene generato dal compenso per coppia privata. Quindi vi consiglio di leggerlo, sicuramente scoprirete delle cose molto interessanti, in alcuni casi sorprendenti. Comunque, era noto a tutti gli addetti ai lavori che molti produttori avrebbero aggiornato i listini, avrebbero ribaltato questo aumento per coppia privata sui listini. Forse solo il ministro e pochi altri dicevano che sarebbero state le aziende a pagare tutto ciò, invece Apple dimostra che Apple è stata la prima, probabilmente arriveranno anche altri, buona parte di questo compenso, o nel caso di Apple tutto questo compenso più l'IVA, perché si paga poi anche l'IVA su questo compenso, viene ribaltato sul consumatore. Parliamo di mediamente 4 euro per uno smartphone, poi dipende dalla taglia e dipende dalla capacità di memoria, poi su questo va aggiunta anche l'IVA, quindi stiamo parlando di sì pochi euro, però è anche una questione di principio, perché se io non consumo contenuti e uno presume che io lo possa fare, devo pagare? È questo, di questo ne abbiamo parlato molto. Comunque una nota di questa settimana va fatta sulla reazione del ministro Franceschini, che addirittura è entrato in polemica con Apple per questo tipo di aumento, accusando Apple Italia di far pagare i consumatori italiani, un po' come ripicca di questo aumento. Su internet trovate molti dettagli di questa polemica, poi ci si è messa anche la SIAE dicendo addirittura venderemo noi gli iPhone, ci metteremo a vendere sul mercato per farvi vedere che si può vendere ad un prezzo inferiore. Bene, quindi vi rimandiamo ai siti internet, al sole24ore.com, dday.it e a tutti gli altri siti che si occupano di tecnologia su questa polemica, che insomma mi sembra si poteva anche evitare. Insomma, un ministro che entra e commenta l'andamento dei prezzi, sicuramente forse si era visto, però forse non era il caso di tornare su questo tema. Allora, un dossier molto interessante, quello per la diffusione della fibra ottica, della banda larga. Il governo è al lavoro su un piano per la diffusione di internet, per rendere più competitive le aziende italiane, i cittadini italiani, il sistema paese. Allora, esistono una serie di possibilità, di progetti probabilmente. È noto che l'obiettivo ottimale sarebbe quello di una società pubblica della rete che si preoccupi di consolidare le reti oggi esistenti in fibra ottica. C'è un sacco di fibra ottica, molto spesso non sappiamo nemmeno dove si trova perché manca un catasto delle reti. Questa società dovrebbe poi costruire tutto quello che manca per realizzare una rete completa che arrivi a casa dei cittadini, nelle aziende, negli uffici. Così come ci sono le reti di tutto il resto, diciamo che tutto il resto è fatto da reti pubbliche, le strade, l'acqua, la corrente elettrica, il gas, eccetera, eccetera, molti dicono ci dovrebbe essere una società pubblica che metta poi tutti gli operatori in condizioni di parità per operare sul mercato. Forse il dossier più interessante e più completo è quello realizzato da Simone Bonannini, che è l'amministratore delegato di Interroth, un esperto, un addetto ai lavori che io sento ribadire, parlare di questo progetto da molto tempo, quando ci sono i convegni, molti dei convegni dedicati alle telecomunicazioni, Simone Bonannini spesso parla di questo progetto, quindi sono molti anni che batte il ferro su questo tema. Abbiamo parlato con lui anche questa settimana per capire quali sono i motivi per cui si dovrebbe andare verso questa direzione. Ma allora, ritengo che questo tipo di rete debba essere assolutamente passiva, quindi spenta, fibre spente, tubi vuoti, e pubblica. Per quale motivo? Perché molto brevemente ritengo che ci sia necessità di fibra ottica in casa di ognuno di noi, di ogni cittadino, perché nel momento in cui si fa un investimento infrastrutturale pensiamo a 20 o 30 anni del nostro futuro, è impossibile ritenere che le attuali infrastrutture in rame possano soddisfare le esigenze. Quindi serve assolutamente la fibra, servirà assolutamente la fibra. Numero due, molti economisti ormai hanno dimostrato che non ci sono gli economics in una città o in un territorio per avere più di una infrastruttura in fibra. A questo punto è evidente che questa infrastruttura deve essere pubblica, perché se può essercene una soltanto e dobbiamo avere la fibra a casa di ciascuno, io preferisco che questo, che poi alla fine è un monopolio naturale, sia un monopolio pubblico e non un monopolio privato. E questo tra l'altro sarebbe un ottimo sistema, un'ottima piattaforma per realizzare un libero mercato con tutti gli operatori che possono operare di fronte a parità di condizioni, di fronte a regole certe e uguali per tutti. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, continuiamo tra un minuto. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Tra poco sarà con noi Luca Colombo, che è country manager di Facebook in Italia. Adesso stiamo parlando dell'infrastruttura alla quale anche il governo è al lavoro per realizzare una rete in fibra ottica in tutta Italia. Un investimento che naturalmente va spalmato nel giro di una decina di anni, sperabilmente anche meno, che sarebbe un investimento non elevato se lo paragoniamo a molte altre infrastrutture, cioè chi parla di 15-20 miliardi, poi i conti magari vanno fatti meglio, ma stiamo parlando di questa cifra, quindi stiamo parlando di alcuni miliardi di investimento all'anno, che tra l'altro sarebbero molto probabilmente anche un business, quindi avrebbero un ritorno economico per lo Stato. Ancora Simone Bonannini. Io sono assolutamente convinto che esista anche un business, perché nel momento in cui un paese si muove in questa direzione con delle regole del gioco ben chiare e ben definite, tutti gli operatori del settore, quindi gli operatori di telecomunicazioni classiche, gli over the top o chiunque, tutti gli stakeholder come si chiamano, quindi tutti gli attori in gioco in questo ambito saranno ben lieti di andare ad utilizzare quella infrastruttura e quindi ad affittarla dallo Stato, se è lo Stato che la possiede. Quindi, ripeto, con regole del gioco ben chiare diventa assolutamente una fonte di reddito. Adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo di Facebook in Italia. Abbiamo incontrato Luca Colombo, che è il responsabile della sede del network italiano di Facebook, e partiamo da qualche numero. Fanno sempre impressione i numeri di Facebook. Quanti sono gli utenti in Italia del social network, Luca Colombo? Ma i numeri che siamo soliti raccontare o descrivere sono legati alle persone che arrivano su Facebook su base mensile, quindi persone che utilizzano attivamente la piattaforma, e sono 25 milioni. Quindi ogni mese ci sono 25 milioni di persone che utilizzano il nostro prodotto in maniera attiva. I dati interessanti sono poi legati a due parametri, il ritorno giornaliero e l'utilizzo da mobile. Su questi due temi, il primo punto è: dei 25 milioni di persone, 19 tornano quotidianamente. È un primo elemento importante, perché mentre il rapporto utenti persone e utenti mensili sono nel mondo è circa 62%, quindi ritorno giornaliero rispetto agli utenti mensili è 62% nel mondo, vedi che 19 su 25 è un 76%, quindi già l'Italia da questo punto di vista è ben posizionata. Come mai? Ma abbiamo visto una crescita legata al secondo parametro, che è quello mobile, e ti rispondo quindi indirettamente dicendoti che dei 19 milioni di persone che tornano su base quotidiana, 14 sono su mobile. Negli ultimi 6-8 mesi abbiamo visto una crescita repentina degli accessi da mobile, che ha fatto proprio recuperare innanzitutto il gap che avevamo rispetto al mondo, perché quelle percentuali, quei rapporti erano inferiori rispetto alle medie mondiali. L'Italia ha chiuso il gap e anzi sta accelerando, quindi 76%, ma 14 su 19 milioni è un numero certamente che vede il mobile accelerare rispetto al mondo. Quindi avere oggi 14 milioni di persone che tornano ogni giorno da un dispositivo mobile, che ricordo essere o tablet o smartphone, sai, è un numero non trascurabile, e sono numeri paragonabili a quelli televisivi, se non il doppio rispetto alla prima radio italiana e quant'altro. Quindi queste sono le audience di Facebook. Voi siete tra le aziende che giustamente insistono su questo scenario che sta cambiando, cioè il mobile sta crescendo moltissimo. Altre considerazioni su questo, cioè come sta cambiando l'utilizzo di internet e di Facebook rispetto al mobile, e un parere anche su quello che alcuni ritengono essere una sottovalutazione di molte aziende che si occupano di comunicazione e in generale di molti cittadini sull'evoluzione del mobile. Ma partiamo magari dalla seconda per rispondere poi al primo pezzo. Sono d'accordo e viviamo anche noi ancora questa mancanza di percezione di quanto sia importante il mobile per un'azienda rispetto all'utilizzo che avviene già oggi dai consumatori. Senza trovare giustificazioni o motivazioni particolari, credo che però il grosso derivi dal fatto che questo forte cambiamento è avvenuto negli ultimi 6-8 mesi, diciamo 12 mesi. Ti faccio un esempio per chiarire cosa intendo. Un anno fa circa c'erano 14 milioni di persone che utilizzavano Facebook da mobile nel mese, oggi sono nel giorno. Quindi c'è un'accelerazione estremamente importante che chiaramente vede le aziende poi doversi adattare, ma stiamo parlando di doversi adattare a qualche cosa che è successo negli ultimi, ripeto, sei mesi, un anno massimo. Quindi il fatto che non ci sia ancora la percezione deriva da proprio questo cambio di scenario, forte discontinuità che trova a volte anche, se vuoi, Facebook impreparato, perché anche noi siamo stati, se vuoi, un po' spiazzati non dalla migrazione verso mobile, ma dalla velocità attraverso la quale è stata c'è stata questa adozione. Quindi che cosa cambia per le aziende o che cosa cambia da un punto di vista di utilizzo di Facebook da mobile? È chiaro che stai utilizzando uno strumento, un servizio da un device con uno schermo ben diverso, quindi l'esperienza e anche il tipo di interazione che vai a ricercare è ben diverso rispetto a quello che puoi avere da un PC, che è molto più ricco, che ha diverse funzionalità, e quindi da un punto di vista di user experience devi rendere quel prodotto veloce, più semplice possibile e altrettanto chiaro nei suoi messaggi. Quindi parliamo di pubblicità in questo caso, gli oggetti pubblicitari che ci sono su mobile, come pure su desktop, ma che stanno all'interno del newsfeed, sono semplici e chiari. Hanno un'immagine, hanno del testo, hanno indicazioni di quelli che sono i tuoi amici che hanno magari espresso una preferenza per quel brand e hanno delle chiare call to action, cioè delle chiare azioni, come per esempio installati un'applicazione, fai un like, eccetera, eccetera. Quindi sul mobile c'è una semplicità di utilizzo e una semplicità di user experience che certamente magari sul desktop non era necessaria per uno spazio di dimensione di schermo ben differente. Tu hai accennato alla pubblicità. La pubblicità è la fonte di ricavi prevalente per Facebook. Che cosa significa fare pubblicità su Facebook per chi utilizza la piattaforma, per chi è abituato tutti i giorni a seguire amici o altre persone su Facebook, vedrà pubblicità e quindi magari conosce, ma in generale che cosa significa per un'azienda fare pubblicità su Facebook? Beh, fare pubblicità su Facebook significa cercare di raggiungere dei potenziali clienti o un potenziale target interessato al tuo prodotto barra servizio. Teoricamente non è molto diverso rispetto a quello che è la comunicazione tradizionale, che cerca di dare un messaggio per trasferire dei valori, per costruire un brand, per costruire degli elementi utili al tuo business. Ha forse degli elementi diversi rispetto ai mezzi tradizionali o le metodologie attraverso le quali oggi noi siamo soliti fare attività di comunicazione. Hai un target da raggiungere su Facebook, vai a cercare di raggiungere quel target attraverso la pianificazione, quindi 18-24 è il tuo target, specifichi chiaramente che vuoi raggiungere quelle persone e raggiungi quelle persone con un grado di successo piuttosto elevato, mentre fino ad oggi siamo stati abituati a cercare di raggiungere quel target per un livello di affinità rispetto a un'area, una sezione, un canale o un prodotto. Quindi questa è la grossa differenza, oltre al fatto che hai la capacità di raggiungere delle audience elevate. Pensiamo prima ai numeri che dicevamo, potenzialmente su Facebook in un giorno puoi raggiungere 19 milioni di persone. Ci sono prodotti pubblicitari che ti permettono di raggiungere masse di utenti, e quando devi vendere prodotti di largo consumo, raggiungere milioni di utenti è chiave. Dall'altra parte però hai anche questa capacità di andare essere estremamente capillare, raggiungere una persona che ha delle caratteristiche ben specifiche. La differenza è che vai da masse a nicchie in maniera molto semplice, a differenza di altri mezzi. Quindi tu mi stai dicendo che poiché le persone sono registrate su Facebook e immagino, ma poi te lo chiederò, dicano la verità e quindi dicano sono una persona che è nata nel tal anno e quindi ho tot anni, abito nella tal città, eccetera, eccetera, io se faccio pubblicità sono abbastanza certo di raggiungere quel consumatore in modo preciso, giusto? Sì. Il fatto di aver effettuato una registrazione, aver espresso degli interessi, dà la possibilità alle aziende di mandare dei messaggi che sono affini a quel tipo di persone, quindi rilevanti. Se poi la domanda è quanto quelle targetizzazioni raggiungono effettivamente delle donne piuttosto che degli uomini 18-24 abitanti in, ci sono delle ricerche che mostrano come oggi l'accuratezza di targetizzazione che c'è su Facebook è certamente importante rispetto alle medie di mercato. Posso citarti dei dati di Nielsen legati a alcune ricerche che si chiamano OCR, Online Campaign Ratings, che mostrano nel mondo proprio come Facebook è in grado su target allargati o anche ristretti di raggiungere esattamente le persone a target in una media del 90-95%, mentre la media, diciamo, dei prodotti o dei servizi digital arrivano a una media circa del 50%, se non più basso. Questo derivante appunto dal fatto che su Facebook ci sono delle persone profilate che devono essere persone reali. Policy di Facebook è o metti le persone reali oppure teoricamente noi chiudiamo il profilo nel momento in cui risulta evidente che le informazioni non sono attendibili. Senti, fare pubblicità su Facebook, ma direi in generale su internet, secondo me non è facile. Può sembrare facile, ma in realtà poi ci sono talmente tanti dati, talmente tante dinamiche da conoscere, da tenere in considerazione, per cui è diventato un mestiere da professionisti. Quindi io direi una società che volesse fare pubblicità su internet in generale, non necessariamente solo su Facebook, deve interfacciarsi, deve avere un consulente, deve capirci qualche cosa. A tuo parere esistono ed è sufficiente la competenza di queste persone sul nostro mercato o siamo ancora lontani da una situazione ottimale? Ma credo che... Confermi intanto che ci vuole qualcuno che ci capisca qualcosa. Beh, il digitale sicuramente è uno strumento che è nato da relativamente poco tempo, 10, 15, 20 anni, se vogliamo, quindi relativamente giovane. Di conseguenza ha una vita relativamente breve, in più evolve velocemente. Quindi conoscerlo è importante, rimanere al passo è fondamentale e per questo si è creato un ecosistema di soggetti che sono aziende che devono fare comunicazione, concessionari e bar editori che erogano, se vuoi, servizi e ti danno accesso, se vuoi, a audience. In mezzo ci sta tutto un mercato di agenzie professionisti che esprimono quella competenza che non necessariamente può essere o deve essere residente nelle aziende. Quindi credo che sia fondamentale questo layer, questo strato tra i due mondi che dicevo prima. Succede e credo che sia fondamentale perché le aziende hanno obiettivo di fare business, non necessariamente di stare, se vuoi, super aggiornati sulle ultime evoluzioni del digitale, mentre i consulenti, le agenzie che fanno proprio questo di mestiere, quindi stare aggiornati e creare valore per le aziende, hanno un ruolo ben preciso. E in un mondo con una forte velocità di innovazione, con forti cambiamenti, questo ecosistema secondo me è fondamentale. E il tuo giudizio su questo ecosistema qual è? Credo che ci siano delle eccellenze come pure delle aree di miglioramento, quindi come in tutti i mondi ci sono sempre delle gaussiane, quindi la media, a mio giudizio, è buona. Credo che il mercato nel quale siamo, un po' anche per nostra responsabilità come operatori, ma anche per come il mondo sta veramente velocemente innovando, crea delle sfide non indifferenti, perché appunto stare al passo non è facile, quindi non è una responsabilità di un operatore piuttosto che di un altro, di un soggetto piuttosto che di un altro. Siamo in un mondo in così forte evoluzione che o si sta al passo oppure è difficile riuscire a avere successo. E oggi credo che l'Italia non sia arretrata rispetto ad altri mondi. Le aziende che stanno all'interno della filiera, che stanno, se vogliamo, nell'area, definiamo così, agenzie, consulenti, eccetera, eccetera, stiamo facendo un buon lavoro in questo senso, ripeto, nelle difficoltà complessive del mercato. Ti faccio una domanda su le aziende su Facebook, non come investitori pubblicitari, ma come utenti che aprono la propria pagina Facebook. Io dico sempre che bisogna farsi molte domande prima di fare qualsiasi passo e dico: ma perché uno dovrebbe aprirsi la propria pagina Facebook? Poi ci possono essere tante risposte, volevo la tua di risposta. Aprire una pagina Facebook è importante, dipende dai tuoi obiettivi, dipende da quelle che sono le tue strategie. Se devo darti una risposta in generale sul perché è importante, applicandolo, se vuoi, alla media degli operatori che possono atterrare sul nostro prodotto, è perché ci sono 19 milioni di persone ogni giorno. 19 milioni di persone hanno degli interessi, sono potenziali acquirenti di un prodotto e sono potenziali clienti per un'azienda di servizi, piuttosto che. Quindi avere una presenza oggi è essere intercettabile o essere visibile a persone, grandi masse di persone che stanno all'interno di un servizio e spesso cercano, se vuoi, quel tipo di realtà. Quindi non esserci è un po' come perdere un'opportunità. Dopodiché esserci significa dare l'opportunità di interagire con questi consumatori che stanno evolvendo sempre di più e non si accontentano più di leggere qualcosa, ma vogliono interagire, quindi dialogare. E quindi essere all'interno di Facebook e dare un'opportunità a questi consumatori che, cambiando e non essendo più soddisfatti da una pura comunicazione monodirezionale, hanno l'opportunità di relazionarsi con quel brand, con quell'azienda e quindi interagire. Quindi è importante per utenti e per come il consumatore sta evolvendo in un'ottica più di conversazione che di comunicazione pura. Sì, io lo potrei però fare anche sul mio sito internet. Perché su Facebook? Perché all'interno di Facebook, all'interno della piattaforma, quello che è il passaparola viene particolarmente accentuato. Il fatto che tu possa postare qualcosa e quindi renderlo visibile ai tuoi amici o ai tuoi fan, secondo che tu abbia un profilo o una pagina, crea in maniera molto più naturale e spontanea il passaparola, che attraverso un tuo sito magari è un po' più difficile da ottenere. E siccome oggi le persone hanno maggiore predisposizione che in passato a condividere, la condivisione certamente è semplicemente in crescita, tu hai oggi con Facebook un valore in più. Dopodiché non ti stiamo dicendo che non devi fare il tuo sito, anzi la domanda da farsi è sempre quella che ho detto prima: quali sono le tue strategie, quali sono i tuoi obiettivi, quali sono i tuoi utenti o i tuoi target, e di conseguenza li rispondi come posso raggiungere quegli obiettivi. E può essere Facebook che risponda a questi obiettivi, potrebbe essere il tuo sito. Quindi ho dato semplicemente, come dicevo prima, una risposta generale, anche se poi in realtà devi calare la risposta caso per caso, azienda per azienda, industry per industry. Ti faccio una domanda sui dati. Voi raccogliete un sacco di dati perché le persone vi forniscono un sacco di informazioni. Anche scrivendo poche righe uno fornisce di fatto molte informazioni. Queste informazioni voi non so come le elaborate, che tipo di dati potete trarne, che tipo di informazioni potete trarne, ma soprattutto volevo capire anche se io sono un'azienda e voglio investire su di voi, che dati posso utilizzare tra i tanti che i consumatori vi danno? Facciamo chiarezza. Le informazioni che vengono lasciate dai consumatori, vuoi in fase di registrazione oppure in fase di espressione spontanea di preferenze, sono utilizzate per al massimo targetizzare la pubblicità, targetizzare quella che è la comunicazione. Quindi che cosa viene offerto alle aziende? L'opportunità di raggiungere delle persone con un profilo, con degli interessi, con delle passioni, con un profilo appunto in linea con i propri obiettivi. Quindi un maschio che vive a New York, appassionato di sport, che prende un sacco di aeroplani, eccetera. Che in quel momento è a New York, quindi informazioni legate a persona, informazioni legate alla georeferenziazione, informazioni legate agli interessi, e le puoi tutte quante incrociare. Quindi, come dicevo prima, puoi andare da 19 milioni in un giorno Facebook in Italia, ma fino alle persone con una super profilazione di nicchia. Non vengono passate informazioni alle aziende, non c'è assolutamente alcun passaggio di informazioni verso le aziende, perché il consumatore, la persona che si è registrata su Facebook e sta facendo delle attività su Facebook ha un rapporto con noi di assoluta fiducia, e quindi noi abbiamo con lui un rapporto che dice: quelle informazioni stanno su Facebook e sono di Facebook, non vengono trasferite all'esterno. Questo non significa che quelle informazioni, però, come dicevo prima, non sono utilizzabili per fare profilazione, mandare a quel consumatore, l'obiettivo finale è questo, informazioni rilevanti. E rilevanti sono dare un contenuto interessante rispetto al suo profilo. Quindi sono due mondi, vengono utilizzate quelle informazioni per mirare, se vuoi, la comunicazione, ma non c'è un passaggio a terze parti di informazioni. Questa era la voce di Luca Colombo, country manager di Facebook in Italia. Questo è 2024, io sono Enrico Pagliarini, grazie ad Anita Panizza che ci aiuta tutte le settimane. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Grazie come sempre per la vostra attenzione, appuntamento alla prossima settimana.